Cruciani, tu sei nato bruttissimo, sai benissimo cosa vuol dire vivere una vita da ragno, cioè da uno brutto che le fighe non sono fine, eccetera. Però cos'è successo nella tua vita? Che tu sei riuscito a diventare famoso, va bene? Allora è ovvio che sei brutto come un cesso, però da famoso hai una chance. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Resta calmo un attimo, non dico che è uno scandalo pazzesco, non dico che è lo scandalo più grande del mondo, per carità, non voglio dire questo, sono altri gli scandali, sono altre le vergogne che agitano questo paese, sono altri gli sprechi, sono altre le vergogne, quello che vuoi. Però anche tu che sei uno strenuo difensore dei diritti della famiglia Cucchi, della famiglia di Stefano Cucchi, non puoi non riconoscere che si tratta di una cosa ridicola, di una cosa ridicola. Di cosa sto parlando? Sto parlando del fatto, popolo della radio, popolo della zanzara, che una signora, una ragazza che si è battuta strenuamente fino adesso e legittimamente, dico io, con qualche stonatura, ma questo si tratta di un'opinione, questa è un'opinione assolutamente personale, con qualche stonatura per la giustizia, per il fratello che secondo lei è stato massacrato, eccetera eccetera eccetera, e lo dice nonostante due sentenze passate in giudicato. E questa signora, che di mestiere, caro Parenzo, di mestiere fa l'amministratore di condomini, mi sembra di ricordare che si occupa di amministrazione, di ragioneria, di queste cose qui. Questa signora, che si chiama Ilaria Cucchi, io non ho nulla, assolutamente nulla contro Ilaria Cucchi, niente, improvvisamente, come per miracolo, e aggiungo io, dopo aver tuonato contro lo Stato che le avrebbe ucciso il fratello, improvvisamente diventa inviata di un programma della RAI, di un programma di Rai 3 che si chiama Affari di famiglia. Ora dimmi che a te non ti fa né caldo né freddo questa cosa, ti prego, dimmi che non ti fa né caldo né freddo. Dimmelo. Non mi fa né caldo né freddo. Perché questioni di famiglia, questioni di famiglia. Io non conosco questo programma, magari il format prevede che ci siano. No. Guarda, la biografia che è presente della signora Cucchi, presente. Non mi quello sì. Che fa. Se non ti piace come fa l'inviata, la potrai criticare per quello. Ma non è questo. Non c'entra assolutamente. Non c'entra una nulla. Benissimo. Amata, io la chiamo. Cioè, perché contesto, secondo te diventa inviata di Rai 3? Perché diventa? Chiediglielo a Rai 3, ma a me va benissimo. Chiediglielo. A te non ti fa né caldo né freddo questa roba qua. Ma proprio niente, assolutamente. Anzi, benvenga Ilaria Cucchi, ci sono tanti cani, benvenga Ilaria Cucchi che magari farà bene questo lavoro. È che qualcuno ci dica questo l'abbiamo capito. Allora, Cucchi, l'unica, il resto me ne frego. Su questo su questo si è già espressa la magistratura. Allora, sul sito di Rai 3, sul sito di Rai 3 c'è scritto. In realtà bastava scrivere sorella di Stefano Cucchi, invece si premurano di scrivere: Ilaria è una cattolica praticante, madre di due figli. Lo scautismo e le attività parrocchiali sono sempre stati i suoi impegni extrafamiliari. Una donna volitiva. In poco meno di un anno, Ilaria scrive a quattro mani col giornalista Giovanni Bianconi: vorrei dirti che non eri solo. Rizzoli 2010. Ilaria è molto diretta, senza sbavature, sensibile ai temi e alle condizioni di quegli ultimi di cui lei stessa si sente parte. Questa è la cifra che contraddistingue i suoi interventi sull'Huffington Post. Hanno fatto bene. Io non dico niente, non dico hanno niente. Fatto bene, non dico fatto nulla, bene. Non dico non nulla. Vogliamo ancora sapere. Vabbè. No, allora, quello che fa c'è il tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo. Io voglio sapere. L'abbiamo detto, l'abbiamo detto. Non rompe... L'abbiamo già detto. A te interessa un po' meno, vedo. No, io mi attengo al contrario di quello che dovresti fare tu. Mi attengo a quello che ha deciso la magistratura. Non ha deciso niente, per la verità. Beppe Grillo. Ma che incredibile, guarda. Beppe Grillo dice che siamo in guerra con la Banca Centrale Europea e non con l'ISIS. Cioè, noi non siamo in guerra con l'ISIL o con la Russia. Noi siamo in guerra con la BCE. Poi dice, era a Bruxelles, non so fino a che punto la polizia rispetterà gli ordini. Tra la gente, i cittadini e le autorità c'è rimasta la polizia. Non so fino a che punto la polizia potrà reggere questo rapporto ambiguo, ambiguissimo, di rispettare degli ordini. Fino a quando? Poi i banchieri che sono cadaveri di cera. Mi ritrovo a sentire delle emozioni verso questi cadaveri di cera, di banchieri, che con la massima indifferenza affossano una nazione, poi vanno in un'altra, affossano un'altra nazione. A Tor Sapienza, quartiere di Roma, sta succedendo di tutto. Salvini annuncia il suo arrivo verso il 22-23 del mese, dopo che ieri manifestanti hanno attaccato forze dell'ordine e immigrati. Qualcuno mi dice: perché non dici la stessa cosa che hai detto altre volte sul ruolo della polizia che deve manganellare? Lo dico, non lo dico, lo dico 100 volte se volete. Cioè, di fronte a ribellioni di massa contro immigrati che sono messi nei campi di accoglienza o contro la polizia, bisogna usare la mano non dura, durissima, non dura, durissima. Anche con questi, a me non me ne fotte se sono fomentati dalla destra, se sono gente del quartiere esasperata, non me ne fotte nulla. Non si assaltano né i centri di immigrati e né le corvette, le macchine della polizia. Chiaro, dunque, mano durissima anche con questi. Sentiamo qualche voce a Tor Sapienza, dai. E bruciamo vivi! A Sibre! A Soccola! Fame! Buttate sotto! Alego da merda! A straniero, a merda! Ecco, queste sono le voci, Parenzo, capito? A straniero, a merda, vi bruciamo vivi. Questo, purtroppo. Senti questa roba qua, senti questa roba qua su un marino. Questa è bella, però è divertente. No, questa di prima era forte, Senti quest'altra. E voi invece chi difendete? Difendete a loro, che ci distruggono la città! Ma Marino dove sta? A qualche matrimonio gay, per caso! A Marino ando sta qualche matrimonio gay. Si rivolgeva ai poliziotti questo signore di Tor Sapienza, che per me andrebbe fermato, ecco, e messo un po', no, in una cella di sicurezza per qualche ora. Appunto. Poi vai là a rivolgerti alla polizia, ando sta Marino. Poi vediamo se stai qualche ora in una cella di sicurezza, che succede. Ecco, però non è che l'arrivo di Salvini sia rassicurante. Non risolverà nulla. Però arriva Salvini, quello fa politica. Ma sì, deve guardare Madre Teresa di Calcutta, non Salvini, scusami. Allora, in collegamento con noi Oliviero Toscani, buonasera, come andiamo? Buonasera ragazzi, vedo che continuate a litigare, mi fa piacere. No, litighiamo, caro Oliviero, litighiamo. Discutiamo della vicenda Cucchi, cioè, nel senso, io, secondo me è abbastanza scandaloso che Ilaria Cucchi diventi inviata di Rai 3, di una trasmissione di Rai 3. Secondo Parenzo invece è normale. Non può lavorare. No, ma già ha un lavoro, fa un'altra cosa. Poi ti faccio ascoltare una cosa che ha detto Freccero l'altro giorno. Si vede che hanno scoperto che è uno in gamba, che si dà da fare, che è riuscito a far mettere in discussione delle cose, e forse andrebbe bene a fare l'inviato, sì, perché no? Ma se uno è in conflitto con lo Stato e dice che lo Stato gli ha ammazzato il fratello, poi vai a lavorare con lo Stato? Dai, su ragazzi, ma stiamo seri, ma no, dai. Lo Stato è fatto, lo Stato ha tante pace, tante... No, invece trovo che uno Stato così è uno Stato interessante. Scusate, No, per carità, ma questa è la tua opinione, noi la registriamo, io non sono d'accordo. Io non ci trovi niente di strano che si inventano un curriculum dicendo... Sicuramente dai, non ha preso questo posto perché si è scosciata o l'ha data via, insomma, No, ma questo... guarda, sullo scosciata, non scosciata, però io non lo dico io non l'ho mai detto, poi ti faccio ascoltare più avanti una cosa che ha detto Freccero l'altro giorno. Freccero è uno... In radio ce n'è tante scosciate. No, in radio no, in radio magari meno, però anche in radio magari. Cioè tu dici rispetto a quelle che la danno via, sono entrate alla Rai, dandola via, benvenuta, sia la benvenuta la Cucchi, dici te. Insomma, sarà stata scelta sicuramente non per questa ragione. Senti Oliviero, ma Salvini ha fatto bene a andare al Campo Rom e adesso pare che andrà pure a Tor Sapienza, insomma, fa il giro delle ribellioni. Ma Salvini è un provocatore, logico, lui va per far questo. Se no che interesse dà Salvini? Se non fa queste robe qua, cosa dice di interessante? Niente, lui va perché così almeno si parla di Salvini della Lega. Ma quelle botte lì, quella macchina sfasciata, non le botte perché non è stato picchiato, la macchina sfasciata tu dici che se l'è cercata? Ma è logico, ma sono stati fin troppo buoni. Cioè, ma dovevo... non puoi andare a provocare la gente così, dai. Secondo me è veramente una provocazione quella. Andava lì a far cosa? A portargli i cioccolatini. A fare l'ispezione nel Campo Rom, a vedere come sono spesi i soldi degli italiani. Lui fa l'ispezione, vado a fare l'ispezione nei cessi pubblici della Lega. Ma come cessi pubblici della Lega? Che c'è? Ma questi qua della Lega, poveretti, devono fare qualcosa di cazzata, se no. Se non fanno le cazzate, cioè tu dici la devono sparare grossa, devono fare cazzate, altrimenti non li ascoltano. Ma le cazzate, se no, a cosa serve la Lega? Dimmi, altrimenti. Cioè, tu dici che hanno fatto anche poco a rompergli la macchina. Ma insomma, non trovo che sia giusto parlare di violenza, però lui andando lì, insomma, è andato a cercarsela. È andato a cercarsela. Gli altri non è che siano degli angioletti, No, in realtà i fanatici contro i fanatici, il risultato è logico, mica faranno l'albero di Natale insieme. No, questo è sicuro, pare anche che non abbia rispettato le indicazioni della polizia. Tra l'altro, Salvini. Fra l'altro questo qua è una cosa, adesso non facciamo gli schizzi. Dico, siamo in un paese. Piove lì, ragazzi. Piove, è una cosa pazzesca. Piove, ma sapete perché? Il Padre Eterno vuole eliminarci. Il Padre Eterno protegge i paesi ricchi. A Parigi c'è il sole. In Germania oggi sembrava, adesso qui con un amico, dicevano, penso, sembra in fondo un giorno di primavera, ci sono i campi verdi. Ho capito, amico mio, però di solito nel nord Europa piove più che in Italia. Di solito così, si vede che è cambiato. Ci vogliono punire, dici tu, le teorie di Oliviero Toscani. Ce l'ha con noi. La cosa pazzesca. Ma tu se potessi... Siamo diventati tutti finocchi, come dici tu, facciamo tutte le cose che Padre Eterno non piace. Ma scusa, Padre Eterno ci protegge più. Ma secondo te, Oliviero, fosse per te, perché non cambi nazionalità? Cambieresti nazionalità? Ma perché devo cambiare nazionalità? C'ho un passaporto, giro dove voglio. Che ne so? La nazionalità è una cosa, vivere in un paese fisicamente un'altra. Cioè l'Italia è un paese di merda, diciamo, per te è un paese... No, bellissimo per vivere, ma che sarà mica un paese organizzato, insomma. Siamo molto divertenti. Un bel paese per vivere. È il più bel paese del mondo per vivere, sicuro. Un attimo solo, fermo lì. Il traffico è il problema. La Zanzara. No, non mi ammazzo di cane, ma no, un paio al giorno. Guarda, adesso ne sto accendendo una perché voi siete realmente la mia vera droga. Allora, sai David, stavo leggendo una cosa prima pubblicata dal Corriere della Sera, il fondatore dei Mormoni, dei Mormoni che ebbe 40 mogli, no? 40 mogli, 40, a proposito di religione. Già ne una è dura. 40 mogli, la sposa più giovane aveva 14 anni e dice che la poligamia gliel'aveva ordinata un angelo con la spada sguainata. E mi ricorda quel film fantastico di Verdone dove c'è il padre che fa una ramanzina al figlio perché il figlio gli racconta la sua esperienza hippie, no? Con la spada de fuori, ti ricordi? Con la spada de fuori, stupendo film di Verdone. Siamo in collegamento con Oliviero Toscani che è in un aeroporto in attesa di prendere Düsseldorf. Yeah. Ma sei in lutto, Oliviero, che chiude il giornale La Padania? No, ma ho pianto profondamente. disse: come farò a vivere adesso senza la padania? Via, delle lacrime incredibili. Coi soldi nostri, coi soldi nostri, fino adesso era mantenuto coi soldi nostri. Non bisogna essere ipocriti su questo. Erano così bravi quelli della padania, dei giornalisti fantastici, un'informazione, adesso non c'è più da piangere, piangiamo tutti, ci dovrebbe essere un lutto nazionale. Ragazzi, sì, è vero, piangiamo. Sì, piangiamo, dai. Piangiamo tutti insieme, dai, piangiamo tutti insieme. No, un lutto nazionale. Non te ne frega nulla, diciamo la verità, non te ne frega nulla. Mi frega, dico che piango, la padania, come facciamo senza padania? Dio santo, non avevo più l'informazione obiettiva, no? È logico. Senti, a proposito, tu che sei ancora, credo, un grande fotografo, credo, non lo so se ancora se sono cambiate le cose. Non so, quando credevi non capivo un cazzo allora. Però questa è una cosa seria. Secondo te è giusto esporre, come ha fatto la sorella di Cucchi, quella foto enorme di Cucchi in tutte le sedi, foto perfetta, bravissima, solamente così si è parlato del problema. Solamente così, non so se ti ricordi al momento di Englaro. Sì, quando ci faceva vedere le foto della sua figlia bellissima con gli occhiali dal sole, sì. Però allo stesso tempo cercava, diciamo, ma facciamo vedere che condizione la ragazza è adesso, per far capire perché lui fa questa richiesta. Che ne so, allora facciamoci pure una pubblicità, allora, a parte che quella foto... Ma non è fare la pubblicità, ragazzi, non sono le fotografie che scioccano, ci sono le realtà che scioccano. Sì, d'accordo, ma per fortuna c'è quella foto. Cioè, ha fatto benissimo a esporre quella foto lì, ha fatto benissimo. Ma provoca la ricerca di la giustizia, perché non si può finire così. A proposito, Parenzo, sai che il nostro amico Bitonci non ha ricevuto il console del Marocco? Non ha voluto ricevere il console del Marocco, che voleva parlarci per il Ramadan. Sì, lui... Però stiamo parlando di un signore che è Bitonci, cioè adesso, voglio dire, di fronte alle cose del mondo, ragazzi, la BCE, c'è un mondo che cambia, innovazione. Però lui dice, Bitonci. Toscani, lo sai, ma che Bitonci dice? Ma Bitonci che non riceve, ma io fossi l'ambasciatore del Marocco, ma manco avrei chiesto di incontrare Bitonci. No, però c'è la questione del Ramadan. Trovare Bitonci. Ma vada a mangiare dei biscotti, ma non vada mica da Bitonci. No, però c'è la questione del Ramadan. Lui dice: siccome non c'è reciprocità in Marocco, in realtà non è vero, perché in Marocco ci sono un sacco di chiese cristiane. Allora, finché i musulmani non permetteranno l'apertura di chiese, eccetera, eccetera, io non ricevo nessun console marocchino, non voglio ricevere. Ma è una follia. Sì, vabbè. Pure secondo me uno riceve il console e chi se ne frega, dai, su. Senti, volevo chiedere a Toscani però una cosa. Nella disputa che si è aperta sulla vicenda dei piumini Moncler, no? Adesso pure Bertelli, quello di Prada, ha detto che la Gabbarelli è stupida. Lui gli ha detto che è un mezzo evasore fiscale, eccetera. Tu con chi stai? Cioè, ha fatto bene. Ma io non è che devi stare con un colato. Io trovo che due sbagliano. La Gabbarelli chiaramente va a trovare sempre delle cazzate. Perché? Come la storia no, ma ti ricordi la storia della pizza? Non usano l'olio vergine d'oliva? Sì. Allora, l'olio d'oliva vergine d'oliva io ne faccio. Non va cotto, signori miei. E mi usare quello di semi per cucinare, per cuocere. Capisci? L'olio d'oliva... E che cosa tutto. Ha sbagliato nella vicenda dei piumini? No, allora è chiaro che le oche sono spennate. Lo sappiamo tutti che spennano le oche. Da dove venivano? Dal cielo. Cascano al cielo. No, tra l'altro lei dice anche che i prodotti della Moncler sono fatti con pochi euro all'estero e poi rivenduti in Italia a 800, 1000, eccetera. Ma che scoperta! Ma infatti anche secondo me chi se ne frega. Ma appunto, queste qua sono le scoperte a Gabbianelli, continua a fare queste ricerche qui, ma molto molto... è chiaro che tutto è molto ingiusto, ma è chiaro che si va a beccare la Moncler, ma sai, ci sono anche delle ditte che fanno delle cose molto meno chicche, molto meno... Cioè, ha voluto colpire la Moncler, secondo te? È logico, ma lei è paterie bourgeois, sempre, ha sempre questo atteggiamento qui. Io non trovo molto giornalistico, serio, in un certo momento, a un certo modo. Cioè, no, è una cosa... Va a beccare sempre quelli che così è facile, su cui la gente si compiace bastonare, insomma. Ma allora, secondo te è una cosa... Lui ha risposto da brubru come... Ha risposto male, lui ha risposto male. No, ma non deve neanche rispondere. Gli mandi un'oca, dici, guarda, gli mando il suo ritratto. Ma gli animalisti rompono i coglioni sulle oca, secondo te? No, ma gli animalisti rompono sempre i coglioni, sono come gli ambientalisti. Sì, uguale. Dei rompi cazzo, dei rompi coglioni. Rompono il cazzo tutti i fondamentalisti. Sì. Comunisti, fascisti, rompono sempre le palle. Bisogna stare attenti a questi. Allora, ma quando parte sta aereo, Olivier? Anche i giornalisti, anche sì, giornalisti. Figuriamoci. Quando parte l'aereo lì? Adesso alle 8 qualcosa. Vabbè, dai, adesso ti richiamo. Quindi tra un quarto d'ora. Milano, piove, ti chiedo un'altra cosa tra un quarto d'ora. Va, giornale radio. Secondo me la sua trasmissione dura un po' troppo, 2 ore e un quarto. Mi sembra strano. La Zanzara. Tra GR, borsa e pubblicità qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Meraviglioso scontro tra Andrea Scanzi e tutto il mondo in realtà, nella puntata di ieri, di martedì se non sbaglio, sì, era da Floris. Scanzi contro la Moretti, potrebbe andare anche al posto di Mazzarri, sentiamo. Quando io parlo con lei, onorevole, io ho anche la difficoltà del definirla, perché non so neanche come collocarla. Cioè, lei 4-5 anni fa era vicina al centrodestra, ma 2 anni fa era bersaniana, comunque ce l'aveva con Renzi che era sessista, poi diventa parlamentare bersaniana. Questo è l'attacco quotidiano. No, poi diventa, diciamo, poi diventa cosa renziana, personale, poi nel 2014 diventa europarlamentare, poi diventa, fare ogni volta, diventa comunque vede, candidata nel quello verde. Che lei ha io detto, sono convinto che lei, vede, se lei fra due settimane l'Inter perdesse, Duir la mette anche come allenatore al posto di Mazzarri. Cioè, dove c'è un posto, comunque arriva Alessandra Moretti, non c'è. Cioè, allora, deve replicare l'onorevole, però. La coerenza non c'entra una mazza, qui è proprio, come dire, il paraculismo, secondo me, il paraculismo più totale. Cioè, non è che c'è l'obbligo di essere coerenti, magari ci sarebbe l'obbligo, anche l'obbligo, insomma, la decenza di spiegare vari passaggi, no? Ma che ha fatto? Adesso non mi pare che, voglio dire, stiamo mettendo sul banco degli imputati una persona che ha preso le preferenze in Europa, l'hanno votata. Cioè, tu sei talmente, come dire, non riesci nemmeno ad ammettere il paraculismo della signora Moretti, che è il più grande paraculismo della politica di oggi. Un momento, poi non focalizziamoci su questo, sono cose molto più interessanti su cui scannarci. Allora, però se ve la fai dire te la dico. Cioè, la Moretti, come tante altre per la verità, ha preso delle preferenze, cioè in Europa. Ma cosa c'entra? Sto dicendo, era con Bersani, è andata a correre. Va bene, d'accordo, hai ragione tu. Se poi lei decide di correre per la presidenza della Regione Veneto, ci saranno altri veneti che gli metteranno una croce. È tutto sopra. Normale, guarda, è tutto normale. Ma in essere caso, eletti non in nome dell'Europa, è tutto normale essere eletti in nome dell'Europa. Scusami, dicendo che è il migliore dei mondi possibili. Bisogna andare lì per l'Europa e poi andarsene dopo 5 mesi, andarsene a fare il candidato. Ma in benissimo. Caso lo decideranno gli elettori. Ma no. Non è paracadutata. Ma che cosa bizzarra che stai dicendo? La gente vota. Che cosa bizzarra. Amore mio, è una cosa diversa, amore. Sì, scusa. Sì, Scanzi amore contro Salvini. È diversa. Scanzi contro Salvini. Sì, no. Ma va bene anche la Moretti che fa così, non ti preoccupare, va bene anche questo per te. Ma no, va bene anche mio, questo. Ma non puoi mettere tutto uguale. Ma sempre, tutto uguale che? No. Ma qui io non ho paragonato a nessuno. Però una cosa grandiosa, quindi quando mi incazzo da morire, anziché mandarti a fare in culo, dico amore mio. Lo sai da quanto l'adotto io questa cosa? Sono anni che adotto questa roba qui. Va bene, però amore, ascoltami. Sì, ma non insistere che sei patetico, perché sei patetico. Ascolta, amore Scanzi, mio, non fare il coglione, non dai. Scanzi Salvini, senti, abbandona l'Europa dove era stata eletta a suon di migliaia di voti. Non me ne frega nulla, è paraculismo, secondo me, ed è indecente andarsene dopo 6 mesi dell'Europa. Vuoi sapere come la penso? È indecente, punto e basta. Se tu invece pensi che sia normale, affari tuoi. Ma penso, Scanzi contro Salvini. Sì, certo, se qualcuno va via dal Parlamento Europeo dove è stato eletto con 200.000 voti in nome dell'Europa dicendo che è una cosa fantastica, per me è un'indecenza. Lo posso dire oppure... Ma lo puoi dire, ma in benissimo. Realtà è una sciocchezza, perché la gente che è una sciocchezza, va bene, è una sciocchezza. Ma cosa c'entra? Io sto parlando della decisione politica, non degli elettori. Della decisione politica di farlo. Scanzi Salvini, dai. Salvini è uno che qualche settimana fa ha solidarizzato con il sindacato di polizia, che aveva applaudito coloro che erano stati condannati in via definitiva per omicidio colposo di Aldrovandi. Stiamo parlando di un razzistello, e i razzistelli hanno successo in questo paese. Matteo è Salvini, molto la replica, giustamente. Scusi. Siamo alla trasmissione di persone serie? O razzistello è il cugino del signore che sta parlando, che non ho il piacere di conoscerle, che sì, prima di parlare di alcuni di milioni di italiani che insulti votano Lega dandogli degli ignoranti deve stare tranquillo. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa cosa deve dire. Altre due vittime del maltempo in Piemonte. Un anziano muore nella sua casa travolta da una frana. Un uomo annega nel Lago Maggiore. Smottamenti in tutta la Liguria. CGIL, sciopero generale di 8 ore il 5 dicembre. Polemica sulla data. I renziani attaccano, fanno il ponte. La replica, altro che ponte, perdiamo lo stipendio. Esplode la rabbia degli operai delle acciaierie di Terni, bloccata a Orte l'Autosole. Traffico paralizzato per 4 ore. Domani a Palazzo Chigi riprende la trattativa. Faccia a faccia Renzi Berlusconi su riforme e legge elettorale. Il premier, via libera all'Italicum entro l'anno e i civatiani disertano la riunione della direzione PD. Grillo all'Europarlamento per lanciare il referendum anti-euro, attacco alla Germania e alla Banca Centrale Europea, peggio dell'ISIS, scintille coi giornalisti, sei come Putin. La sonda della missione Rosetta si è posata sulla cometa, un'impresa mai tentata prima. Attimi di tensione prima dello sbarco ci dirà molte cose sui corpi celesti. È l'unica tappa a Milano del tour di Cat Stevens, che torna a cantare dal vivo dopo 40 anni. Ancora contro le guerre e contro gli estremismi. Intervista in esclusiva al TG3. Intanto abbiamo recuperato Oliviero Toscani, eh? Oliviero? Eccomi qua. Dove sì, è in bagno a pisciare, dove sei andato? Esatto, pigliatevi col pisello in mano voi, strano. Ma ogni volta che ti becchiamo sei colpito? Ogni volta col pisello in mano, state sul pisello. Ma non ho capito, come sono i bagni all'aeroporto di Düsseldorf? Fantastico, Düsseldorf, pulitissimi, no, fantastico, la Germania è un gran paese. Senti, ti voglio far ascoltare una cosa che è venuta fuori da Radio Maria, la Radio Maria, ed è una professoressa che ha una trasmissione ogni tanto che parla di omosessualità. Radio Maria, senti che succede, aspetta Oliviero, senti, professoressa Azzori. L'omosessualità è un non senso nei confronti della vita coniugale e familiare. È quantomeno nocivo raccomandarla in nome dei diritti dell'uomo. E imporla è un crimine contro l'umanità. Poi dell'aborto, se non sbaglio. Nessuno ci può negare la libertà di coscienza, per esempio, di non effettuare aborti o di dissentire apertamente sul fatto che, per esempio, il diritto all'aborto sia un diritto fondamentale. L'omicidio di un essere umano, ancorché nel grembo materno, non può essere un diritto. Che vogliamo fare con Radio Maria, Oliviero? Beh, insomma, devo smettere di pregarla. Smettere? Di pregarla, di crederci, no? Vabbè, questo, sai, ognuno può credere a queste cose, no, oppure no, cioè che ci sia un complotto, dico, per imporre... Così come ognuno ha diritto di dire quello che vuole, è chiaro che una che dice una roba così è che va davanti a fare la suora, insomma, va bene. Cioè siamo all'ambulanza, cioè bisogna chiamare un medico, sì, bravo. Poverina, no, fa la suora. Ne dice una roba così vuol dire che non è lì per aiutare... Per aiutare l'umanità, no. Senti, tu chi vedi bene? Tu chi vedi bene al Quirinale? Ah, non so, cosa dice Renzo Arbore? No, come Renzo Arbore? Dai, su, Oliviero. Perché no? Renzo Arbore, no? Dai, sai. No, Benigni, penso Benigni che. Ma che Benigni, dai, su. Ma. Che vuoi mettere? Ma dai, Benigni, Renzo Arbore, mica stiamo a Canzonissima, mica siamo a Domenica Inn, mica siamo a... Beh, come Renzo Arbore sarebbe intelligente abbastanza fare il Presidente della Repubblica, io sarei anche felice di avere un Presidente così. Senti, una persona molto... Quando qualcuno dice, smontiamo un po' questa roba, quando qualcuno dice bisogna che ci sia una donna, io metto mano alla pistola di fronte a una frase del genere, perché mi dà un fastidio enorme. Che vuol dire? Infatti, non bisogna, ma cosa vuol dire? Ci vuole una persona che sia all'altezza, che sia brava, poi che sia un uomo o una donna, mi interessa. Cioè, è arrivato. Certo, una donna sarebbe divertente, sarebbe interessante, finalmente anche noi ci muoviamo un po', insomma, sono un paese vecchi, dai. Sì, vabbè, d'accordo. Vecchia, no? D'accordo, però il fatto che qualcuno... Una donna sarebbe un segno, un certo segno di... Ma che segno? Ma che c'entra la donna? Ma che c'entra la donna? Appunto, non c'entra niente, ma siccome abbiamo poche altre possibilità di dire qualcosa di intelligente, allora almeno diciamo qualcosa di banalmente intelligente, insomma. Bah. Almeno quello. Vabbè, ti saluto, va, ciao. Perché tu non vuoi una donna? Ma che, ma non me ne frega niente, a me basta che ci sia una persona. Mettiamo la Joe Squillo. Dai. Joe Squillo. Oppure la Nappi, sì. Valentina Nappi, la pornostar. Appunto, no, la pornostar male, che no? In un'intervista, tra l'altro, ha detto una cosa ragionevole. Le hanno chiesto, intervista a Lettera 43, c'è una donna che le piacerebbe vedere Presidente della Repubblica. Senti quanto spesso le persone che possono sembrare, no, più lontane dalla realtà o comunque non particolarmente, invece si dimostrano più intelligenti di moltissime donne che fanno politica oggi. E la Nappi risponde: perché una donna? Non amo queste domande implicitamente sessiste. Perché è così? Se tu fai una domanda, ma ci vorrebbe una donna, perché non mettere una donna? Ma perché devi fare questa domanda? Una quota rosa. Eh? Il cuore rosa, ma no, no, ciao. Beh, ciao. È tuo amico Renzi. Ma sarà amico tuo, non mio. Sarà amico no, tuo. No, amico, ma Grillo, che... Grillo è finito. Hai sentito Grillo che ha detto? Che bisogna combattere. Ve l'ho detto da tanto tempo che Grillo era finito. Siete voi, non ci credevate. Sì, questo è vero, questo è vero. Questo è vero. Allora, ciao, ciao, bene, ciao. Vorrei ribadirlo. Ciao. Non litigate. Sì, ma si litiga, poi si fa pace. Ormai è tutto degradato. La Zanzara. Io certe volte io faccio il tassista, devo spegnere la radio quando sento la Zanzara, perché i clienti dice: ma che radio è? Radio Parolaccia. Ragazzi, se fossimo in America, altro che matti, eh. Se la Zanzara fosse in America sarebbe un delirio ogni giorno. Ah, ho capito di cosa parli, di quel predicatore. Sì, l'ho visto, beh, l'ho certo. Visto il video. Ma non è un predicatore, il predicatore è quello che invoglia, no, sì, quello, che invoglia un tizio, secondo me poi è tutto costruito, eh. Comunque, no. Pare anche che ci sia un passaggio di denaro, ma comunque lasciamo perdere. Un tizio si chiama della Church of God in Christ. Chiesa di Dio in Cristo. Un signore che a un certo punto prende il microfono durante una convention e urla: sono guarito, non sono più gay, adesso amo le donne. Eccezionale, sentite. I'm not gay no more, I am delivered. I don't like men no more, I thought I like women. Women. I said women. I'm not gay. I would not date a man. I would not carry a purse. I would not put on makeup. I will love a woman. Non sono più gay, Dio mi ha liberato. Non mi piacciono più gli uomini. Vi dico che amo le donne. Secondo me col cazzo che è guarito questo qua, eh. Non è guarito manco per niente, cioè, ha un altro tipo di problema magari. Forse è guarito, secondo lui, dall'omosessualità, ma ha altre cose in testa da curare. A proposito di cose da curare, ma insomma, Radio Maria, ragazzi, Radio Maria ospita una signora che si chiama Azzori, per carità, va benissimo, però sentite cosa dice. Oltre a imporre l'omosessualità, come che secondo lei qualcuno impone l'omosessualità, vuole imporre l'omosessualità come crimine contro l'umanità, dice anche che scegliamo, basta scegliere, il matrimonio gay danneggia il bimbo. Senti. L'omosessualità altera la vita coniugale e familiare, non può essere un riferimento educativo per i bambini. Li danneggia, li rovina in profondità, e privare un bambino di un padre e una madre è una violenza inaccettabile. La cultura suicida delle unioni gay. Il matrimonio e la famiglia precedono il potere politico, che ha l'obbligo di rispettarli nella loro struttura umana universale. Quando cercano di smontarli in maniera sistematica, quando li snaturano rimpiazzandoli con le unioni civili, quando in nome della ideologia gender ridefiniscono le coppie, il matrimonio, la famiglia, i discendenti per privilegiare l'omosessualità e la transessualità, fanno perdere all'umanità il senso della realtà e la ragione delle cose e contribuiscono alla creazione di una cultura suicida. Beh, è un ragionamento lungo, forbito, per dire che le unioni gay portano ad una cultura del suicidio. Questo Radio Maria il 5 novembre scorso. Ti è sfuggito forse, Parenzo, che l'altro giorno abbiamo ospitato un signore che ha chiamato e che pronunciava queste parole, te le faccio sentire. A proposito, non vogliamo sfuggire alle cose del giorno, eh? Parte Renzi, Berlusconi, chi se ne frega, vedremo quale sarà, quale sarà l'accordo. Noioso, no, l'annuncio di oggi è che come mai i sindacati decidono di fare uno sciopero generale proprio alla vigilia di un ponte? Immaginavo, di un ponte festivo. E come mai? Ma io immaginavo. Come mai? Come mai? Che scivolassi di che vergogna, che vergogna, cosa, guarda, che vergogna. Posso ricordare, amore mio, a loro signori all'ascolto. Sì, che perdono dei soldi, ho capito, benissimo. Le compagne e le compagne, ma in generale sì, i ma lavoratori. Come mai vengono scelti dei giorni proprio a ridosso di un ponte? Me lo spieghi? Come mai? Come mai? E mai un martedì, un mercoledì, un giovedì? Perché i sindacati non sono stupidi. Dai, su. Perché i sindacati non sono stupidi. Però allora, chi fermo, sciopera appunto. Perde il salario. Sì, ma quello lo sappiamo, non c'è bisogno no, di dirlo. Ma va detto però. Ragazzi, se fanno il ponte lungo, se fanno il ponte lungo, questa è la realtà. Ci sono persone che per 80 euro al giorno o quanto gli tolgono. Ma senti questo ascoltatore, ma lo sappiamo che perdono soldi. Senti questo ascoltatore. Senti questo ascoltatore. Senti questo, senti questo. Giorgio da Genova. Buonasera. Vai Giorgio, dimmi. Buonasera, io sono per lo sterminio completo degli rom e degli zingari. Bene. Farsi del mangime per i maiali è l'unica soluzione per... È l'unica soluzione per io che cosa? Io spero che questo stia scherzando, questo pazzo. No, no, non sto scherzando, Parenzo. E allora lei è un matto. E lei? È un potenziale violento e un matto. Lo sterminio completo, donne, lei uomini, bambini. È pazzo. Qualcuno ci ha detto, qualcuno ha scritto, l'avete cassato, l'avete tolto, l'avete cestinato, l'avete buttato via dalla trasmissione, l'avete... Noi non lo facciamo questo e ce l'abbiamo qui in carne e ossa, caro Parenzo, Giorgio da Genova. Io voglio capire da Giorgio da Genova se veramente vuole fare dei rom mangime per gli animali, caro Giorgio. Eh? Buonasera. Buonasera, mi dica con questa voce così bassa. No, io sono tranquillo perché sono cosciente di quello che dico. Per cui vuole fare dei rom mangime per gli animali? Io ho una moglie non italiana e si è inserita benissimo. E allora? Loro non si inseriscono. E dunque? Loro non li puoi cambiare. Un animale, se non sbaglio in Mein Kampf di Adolf Hitler, appunto. Un paragrafo di Mein Kampf, se non sbaglio. Appunto del Mein Kampf, dice, dice, un animale se lo addestri cambia, uno zingaro non cambia, quindi via, campi di concentramento, un autocompattatore, da una parte entra zingari, dall'altra esce mangime per maiali, no? Beh, io pensavo scherzasse, Parenzo, io questo signore. Pensavo scherzasse. Questa persona vomitevole che sta parlando, che addirittura cita alle 19.43 su una radio non clandestina, ma la più importante radio nazionale di informazione. Ma me ne fotto il posto dove sia. Dice delle cose. Mi puoi dare il numero di cellulare in privato di questo signore che lo do alla questura per cortesia? Ma perché alla questura? Adesso che c'entra la questura? Non scherzo più, scusa, non scherzo. No, ma io non ho scherzato e ti assicuro che non ho concordato nulla con questo signore. Io lo denuncio alla questura questo. Giorgio, lei è consapevole, lei ha citato il Mein Kampf di Hitler, si rende conto o no? Cioè, uno a lei può dire quello che vuole, però non è che può prendere come esempio il Mein Kampf di Hitler, io caro. Lo cito, alla questura denuncio questo qua. Giorgio, dimmi. Io non l'ho interrotto il signor Parenzo. Ma non c'è un cazzo da interrompere, amico mio, c'è da andare immediatamente dai carabinieri o dalla polizia e c'è da intervenire subito, perché uno così in libertà non può stare. Vabbè, non esageriamo, ognuno può dire quello che vuole, dai, su. Ma è mangime per cazzo. Bravo, Cruciani, vabbè, bravo. Lo denunceranno le associazioni rom, quello che è. Lo denunceranno Nazione Rom, questi qua, va benissimo. Perché denuncialo tu, chi se ne frega, denuncialo tu, se lo vuoi denunciare, denuncialo. No, a parte che sull'Azione Rom poi ti dirò una cosa, perché ho aderito a un'associazione rom, ma ti dirò dopo. Hai aderito a un'associazione poi rom? Ti spiego tutto domani, non ti preoccupare, stai calmo. Fammi sentire questo razzista schifoso. Stai vabbè, calmo. Giorgio, allora. Un'altra cosa poi ti dico. Non ho capito. Dai il numero di questo. Allora, io pensavo. Sì, te lo mando, te lo mando. Mando il numero di questo signore. No, Giorgio. Signor Cruciani, non mi tradisca. No, beh, che vuoi adesso, non è che se la fa sotto lei. Dice una cosa e poi se la fa sotto, amico mio. Io non me la faccio proprio niente sotto. E allora, però, se uno ha detto delle cose, ne poi subisce, appunto, le conseguenze delle cose che dice, come tutti, no? Quelli che si stupiscono. Come è capitato a me con Giovanardi e con altri, amico mio. Ma qui non... allora anche Parenzo deve stare attento a quello che certo. dice. No, però scusi, Giorgio, certo. Io voglio capire se veramente lei pensa che la soluzione sia quella dello sterminio dei Rom. Diciamo che non trovo un'alternativa. Non c'è un'alternativa, ecco, non c'è un'alternativa. Dunque, secondo lei che a cosa... A meno che Parenzo non voglia metterseli tutti in casa, lui. Cioè, siccome non si vogliono adattare, dice lei, siccome rubano, siccome sono dei criminali, mi sembra di capire che lei abbia detto questo, no Giorgio? Certo, certo. Allora, lo sterminio, uccidiamoli in mangime per gli animali, giusto? Sì, sì, sì. Ma scusi, qual è esattamente il capitolo di quel libro che ha citato lei? Non lo so, signore. Città a memoria. Ma scusi, lei ha citato prima a memoria il Mein Kampf. Sì. Il Mein Kampf. Lei l'ha letto, signor Cruciani? Bello, sì, per studio, per motivi di studio, di curiosità. Ma... No, io l'ho letto due volte perché la prima non rimane bene. Ah, bisogna farselo rimanere impresso. Bisogna studiarlo così uno approfondisce la cosa. Parezzo, sta peggiorando la sua situazione, sì, secondo me. Io credo di sì. Il signor Giorgio da Genova. Signor Giorgio già di Genova, bisogna. Perché già di Genova? Perché magari lo mettono. Ma no, ma uno in Italia, se uno dice che Hitler fa bene. No, però può stare ai domiciliari. No, che? No, io non ho detto, ho citato una cosa di Hitler. È diverso. E ha detto anche che andrebbero presi in una camera a gas, poi compattati e resi mangime per animali, ho capito. Vabbè, caro Giorgio, arrivederci. Arrivederci. Questa voce tranquilla, lo dice con questa voce. È pericoloso. Questa voce tipo Himmler, no? È questo che lo rende ancora più pericoloso. È pericoloso, dai. Allora abbiamo Giovanni da Roma, dai Giovanni intanto. Bello del Dio, me lo guardo, è un anno che ti sto dietro, caro Peppino. Dimmi, caro. Ascolta, due cosette, una leggerissima riguardo Marino. Caro sì. Marino, vergognati, vai a lavorare. E un'altra su Cucchi. Ma che c'entra vergogna di vai a lavorare? Adesso non è che lei sta qui alla manifestazione a Tor Sapienza, amico mio. Sì, per carità, si può dire tutto qui. Però che vuol dire vergogna di vai a lavorare? Quello lavora, fa il sindaco di Roma, bene o male, poi lo giudicheranno i romani, o no? Che c'entra Tor Sapienza, scusami. No, non stiamo qui in piazza a Tor Sapienza. Vergogna, Marino, vergogna. Vabbè. Io molto lo pago tante volte. Mo aspetta, ci ho pure torto. Comunque, Cucchi. Sì. Cruciani, allora io ti dico una cosa. Sì. Sono un ex tossicodipendente. Sei un ex tossicodipendente. Parenzo, perché? Io vorrei chiedere questo, Cruciani, caro sì, amico sì, mio, dimmi. Da 4 anni che lavoriamo insieme a questa dimmi, cosa. Dimmi. 4 anni che c'è uno spaccato straordinario, drammatico, violento, vomitevole dell'Italia. Perché dal signor Carruba, dal signor Barisoni, dove chiamano in diretta? Dal signor Milan, ad esempio. Sì, sì. Chiamano pochi perché non è una trasmissione per gli ascoltatori. Ma nelle trasmissioni ove chiamano, ove c'è aperto l'800 non 24, chiama un ex tossicodipendente. Vabbè, come non mai essere, non chiama non gente che cita Mein Kampf? Io vi chiedo come sì, mai. Sì, ma un ex tossicodipendente non è che è un criminale. No, ma perché dai, anzi lo abbraccio fortissimo, va benissimo. Appunto, Giovanni, allora qual è il punto? Parenzo, ma sì. Come ti voglio difendere? Ce l'hai con me? No, anzi. No, non ce l'ha con te, dimmi. Cruciani, ascoltami. Dico una cosa, io purtroppo ho passato tutta la prassi del tossico, galera, sì. Commissariati, eccetera, eccetera. Ascolta, faccio una premessa a tutti i poliziotti che mi ascoltano, sto scherzando, Ma che vuol dire stai scherzando? No, amico mio, stai scherzando o non stai scherzando? Ogni volta che sono entrato in commissariato sono sempre uscito gonfio. Allora, questo vuoi dire, che ogni volta che sei andato in un commissariato hanno sempre pistato? Sempre. Sto scherzando a tutti i poliziotti, ma andiamo a prendere a casa. Allora, ascolta, mo te dico questa. Ma che ti facevi, l'eroina? Che ti facevi, l'eroina, te? L'eroina, sì, purtroppo l'eroina. Sì. Per quanti anni ti sei fatto l'eroina? 20 anni, 18 anni. E adesso stai tranquillo, pulito? Adesso 13 anni che sto senza nemmeno una cannetta. Manco una canna ti fai? No, perché la fai bene? Manco le sigarette, meno male, ce l'hai fatta, allora si può dire? Sei uno di quelli che ce l'ha fatta per miracolo, malattie, cose, niente. L'eroina purtroppo è una brutta bestia, sta sempre dietro l'angolo. Io non passo un giorno che non ci penso. Ah sì? Non dai retta al tossico che dice ce l'ho fatta, non esiste al mondo. Cioè ogni tanto pensi, ogni giorno pensi al buco. Sempre, guarda, non passa un giorno che non ci ho pensato. E lo so, è così. Fidati. Allora, ascolta, però te voglio dire una cosa. Dimmi, hai detto una cosa già, che ogni volta che andavi in un commissariato prendevi un sacco di botte. Vabbè, sempre, però... ma per me che scherzi. Ma se e allora, secondo te allora, Cucchi, secondo te allora, Cucchi è stato ammazzato di botte? Ti dico una cosa, fidati. Dimmi, guarda, dimmi. Te lo giuro su mia figlia. Dimmi. Fidati. Allora, quando entri in un commissariato e poi ti prendono in carico, quindi c'è l'arresto... Non è che te devo come pensare tanta gente, ci mettono un'ora, ti arrestano, vanno, ti portano in carcere, non esiste. Calcola che se passa un giorno c'hai un gran culo, perché poi una volta che stai lì, sei te che ci vuoi andare, portatemi dentro, non ce la faccio più. Vabbè, quello allora, però riguarda te che eri tossico, No, riguarda che poi la pazienza, perché te vabbè, Giovanni, però più. Dai, sintetizza. Comunque, ascolta, io ti voglio dire un'altra cosa, ti portano in ufficio per le impronte. Se tu hai un graffietto, ti fanno le foto. Cioè, ti chiedono, ti spogliano. Sulla tua scheda mettono pure il tatuaggio, il neo. E allora? Allora, Cucchi, quando è entrato, a parte che non ho dubbi, ma proprio non ho dubbi, perché poi i più pezzi di merda sono quelli della penitenziaria. Quelli, guarda... Vabbè, adesso stai dando dei pezzi di merda a quelli della polizia penitenziaria. Ho fatto una premessa prima, sto scherzando. Vabbè, non hai dubbi che è stato pistato. Vabbè, ma grazie. Ascoltami, Giovanni. Ascolta, ma rimani pregiudicati. Ma a Rubibbia chiamate, ma non c'è la squadretta che gira. Ragazzi, chiamate perché Cucchi, Torello, c'è cascato, è stato incastrato, intrappolato. Ciao Giovanni, ciao. Caro Parenzo, però è un bene che non chiamino in altre trasmissioni, in realtà chiamino qui, Non c'è dubbio, l'hanno presa come punto di riferimento, diciamo. Vabbè, ma adesso non è che chiamano solo questi, dai. Poi no, questo qua scherzo, è otto. Dai, scherzo. Allora, poi tu fai tutto no, quello vicino. Il numero dammelo di questo nazista, però. Ah, quello di prima. Sì, lo devo ma abbiamo con noi grande ritorno alla Zanzara Paolo Becchi. Buonasera, professore. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Sono molto arrabbiato con Parenzo per un tweet che ha fatto dove mi ha definito stralunato, qualcosa del genere, ma vabbè, ma questo mi sembra di stare in ottime condizioni. Guarda, ti ho visto alla trasmissione Agorà, sì, del signor Greco l'altro giorno, sì, mi pare l'altra mattina, sì, che dicevi delle cose, era mattina, quindi uno non poteva neanche, forse ti eri svegliato male, non lo so, eri stralunato, nel senso che dicevi delle corbellerie. Cioè, gli hai dato dove sono le corbellerie, sai, è facile criticare senza motivare. Comunque, stralunato, gli hai dato quasi del mattoide, diciamo, questo volevi dire? No, il mattoide stralunato è proprio letterale, cioè è anche bonario, cioè io l'avrei abbracciato, gli avrei fatto una carezza sulla barba. Infatti l'hai anche scritto, ti ringrazio, ricambio volentieri. Cioè, l'avrei proprio abbracciato. Ma si accarezzano i matti, però. Si accarezzano le persone che hanno bisogno di avere delle cure. Appunto, Paolo. Ecco. Beh, insomma, non credo, uno si può prendere delle carezze anche senza aver bisogno delle cure. Allora, voglio chiedere a Becchi subito una cosa. Sì. Possiamo certificare che ormai hai abbandonato il Movimento 5 Stelle? Adesso lasciamo perdere quello che è successo prima. No, io sono iscritto e resta una passione, così, sai, come si fa a abbandonare la Sampdoria? Cioè, è inutile. Vabbè, non è che adesso i movimenti si possono pure. Sto dicendo, io quando c'era Garrone lo odiavo, Ripereta mi piace tanto, ora magari ho un po' di certi dubbi su come stanno andando certe cose, ma non vedo altre, nel momento attuale. Non è che vedo molte altre alternative, ecco. Ma io sono sempre stato una coscienza critica. Ma come va? Le fistole anali come vanno intanto? Parliamo di cose serie. Questo è un problema risolto, per fortuna. Abbiamo risolto definitivamente il problema delle fistole anali. Sì. Cioè non c'hai più quelle perdite pazzesche, quelle cose. Assolutamente. Quel dolore al culo infernale. No, ecco, per fortuna direi che sono abbastanza tranquillo, ecco, perché sono anche molto, molto rilassato e posso vedere le cose con una certa apertura mentale, ecco. Ora mi occupo di morti cerebrali, che è sempre stata una mia passione. Morti cerebrali, scusa, di morti cerebrali. Ah sì, le vecchie cose, sì, le morte. Mi occupo della morte cerebrale, che è sempre stata una mia passione. La morte cerebrale. Un attimo solo che abbiamo la pubblicità, poi torniamo, parliamo un po' di 5 Stelle, di Grillo, Casaleggio, eccetera, eccetera. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità. I'm not gay no more, I am delivered. I don't like men no more, I said I like women. Un animale se lo addestri cambia, uno zingaro non cambia. Quindi, via, campi di concentramento, un autocompattatore, da una parte entra zingari, dall'altra esce mangime per maiali, no? Ah, poi vi voglio far ascoltare una cosa da Saviano di questa mattina da Milan, Parenzo. Perché al di là del fatto che tutti quanti dobbiamo essere comprensivi verso qualcuno che è sotto scorta da tanti anni e per carità ci inchiniamo e siamo rispettosi. No, ma non dirlo con ironia. No, però. Ma non lo dico con ironia, lo dico no, su... Perché tutta questa premessa, come dice, premesso che io amo gli ebrei, amo i neri... No, guarda... Però... Premesso no, che guarda, allora ti faccio sentire premessa. Una cosa. Dice: vado negli Stati Uniti dove, sì. E non resto dove assolvono i camorristi. Ecco. Allora, a me, queste persone che brandiscono, utilizzano le sentenze di condanna. Il ragionamento che facevo ieri, che è stato ripreso oggi da molte persone, per fortuna, anche dall'amico Facci, e sono contento. Sì, l'ho visto. Cioè, il ragionamento che facevo ieri è confermato. No. Cioè, quando si tratta di sentenze, ci sono delle persone che hanno delle tesi precostituite e non accettano. Ho capito già cosa no, vuoi dire, ma fammi finire. Che non accettano una sentenza quando non è nel loro, come dire, nei loro desiderata. E purtroppo anche Saviano rientra in questa categoria, perché ha già detto che la sentenza, per esempio, di L'Aquila, della soluzione all'Aquila, è come la vicenda Cucchi, che non c'entra una beneamata mazza, non lo dico, che non c'entra un cazzo. Vogliamo dire che non c'entra un, è come la vicenda, sì, Cucchi. No, ogni tanto Saviano niente. Dice delle puttanate, non si può, ma dice delle puttanate come noi, ma dice delle puttanate inaudite. Siccome però è l'icona Saviano, nessuno può dire niente. Cioè, dicono delle cazzate enormi, solo che non si può dire, no, perché è Saviano. Sull'Aquila hai ragione. No, ma senti questa cosa non resto in un paese dove assolvono i camorristi. A parte che qui non è che assolvono, per fortuna, non è che assolvono sempre i camorristi. In questo caso li hanno assolti perché, evidentemente, a meno che lui dice che sono collusi, che sono mafiosi i giudici, evidentemente non hanno trovato le prove. Perché se no, a che cazzo serve un processo che è tanto esaltato da Saviano? Sentiamo. Che fai ora? Torni negli Stati Uniti? Sì, torno in America. Non resti in Italia? Tu resteresti dove hanno assolto io e Bidognetti. Questo era da Ballarò, ma è uguale. No, ma non ha tutti i torti su questo, perché lui comunque non è vittima. Torti. No, ma ti spiego, ma perché. Non è che se uno è vittima può dire le minchiate, cioè, quando vuole. Essendo vittima e vivendo una situazione molto particolare, perché lui, io l'ho visto, vabbè, a Roma, l'ho incontrato, vabbè, a Roma. Allora adesso ricapitoliamo tutta la situazione. Ricapitoliamo tutto. Così per arrivare alla conclusione che siccome è vittima facciamo può dire quello che vuole. Un reset come io. Quando ci sono delle vittime. Quando ci sono delle vittime, le vittime hanno il diritto anche di dire non è stata fatta giustizia, sia esso il caso Ilaria Cucchi, sia esso il caso Saviano, che non è soltanto un protagonista. Senti, della solo tu puoi pensare che Ilaria Cucchi è normale che vada a fare l'inviata di un programma di Rai 3. Ma che cosa c'entra questo? Fammi sentire Freccero su questo. Fammi sentire Freccero. La cosa che mi colpisce molto è che la sorella di Cucchi piano piano diventa sempre più bella, diventa sempre più televisiva, diventa sempre più in qualche modo plastica, mentre la foto rimane ancora lì. E più lei in qualche modo viene plasmata dalla TV, dal dolore, e quindi è un dolore in qualche modo, quindi questo senso che viene plastificato, la foto rimane sempre identica ed è sempre più forte. Abbiamo con noi Paolo Becchi, professore di filosofia del diritto alla Università di Genova, sì, possiamo dire attivista del Movimento 5 Stelle. Professor Becchi, mi sembra che Grillo, adesso lei lo può dire esplicitamente, lo poteva dire pure prima, perché non è che lei ha mai avuto un legame, come dire, no, ha avuto un rapporto molto stretto con Casaleggio, ma insomma ha sempre detto quello che pensava. Diciamo che Grillo sta sbagliando tutto, lo possiamo dire? Ma no, la battaglia sull'euro è una battaglia giusta, è il mezzo che... È arrivata con un po' di ritardo, diciamo, la battaglia sull'euro. È arrivata con un po' di ritardo, ma anche nel modo in cui è stata formulata presenta dei rischi notevoli. Voglio farvi riflettere su una cosa. La proposta è quella del referendum, sì, sull'euro. Che non si farà mai. Ora, in linea di principio si potrebbe fare un referendum consultivo, perché abbiamo un precedente nel 1989, quindi anche se la Costituzione in realtà non lo prevede, c'è questo precedente del 1989, quindi in sé la proposta di un referendum consultivo sull'euro, sì, sarebbe un'ipotesi praticabile. Vabbè, attenzione, per poter accedere al referendum consultivo ci vuole una legge costituzionale. Ora, questa legge costituzionale, che è una procedura che non vi sto a descrivere, lunghissima, non, sì, vi sto a tediare, comunque alla fine ha bisogno di una maggioranza assoluta, sì, oppure di una maggioranza addirittura superiore. Vabbè, lei sta dicendo che Grillo è velleitario. Lasciami finire il discorso. Metti anche il caso che ci sia una costellazione tale per cui si raggiunga la maggioranza assoluta. La Costituzione in questo caso non dice che con la maggioranza assoluta si può accedere al referendum, perché non è stata raggiunta, sì, però, la soglia dei due terzi. Professore, non scendiamo in queste cose tecniche. Lasciami finire il ragionamento, perché la gente che ci ascolta, i due terzi, se non si raggiungono i due terzi, sì, non si riesce a cambiare. La Costituzione prevede che cosa? Che un quinto dei membri di una Camera, o 500.000 elettori, o 5 propongono il referendum, sì, possano chiedere loro un referendum sul referendum. Cioè, alla fine di dicembre noi non avremo, come ha detto, nella migliore delle ipotesi, non avremo un referendum sull'euro, ma un referendum sul referendum sull'euro. Cioè, vabbè. Lei mi sta una cosa allucinante. Lei mi sta dicendo, Becchi, che Grillo manca qualsiasi tipo di visione strategica, che non insomma, che è una pippa come politico, diciamo la verità. Direi che in questa posizione che ha assunto adesso ha dimostrato, non è neanche la prima volta, grande dilettantismo politico. Dilettantismo politico, cioè in questo momento non sa più che pesci prendere, perché in realtà alcuni suoi uomini trattano col Partito Democratico per alcune nomine, ma il giorno prima gli danno delle betino, eccetera, eccetera. Di che stiamo parlando? Cioè, la gente, quelli che votano 5 Stelle forse possono essere disorientati o no? Vabbè, io direi proprio di sì, se sono disorientato io, penso che siano disorientati anche molti altri iscritti, questo è un grande... Loro dicono per eleggere due persone indipendenti, in realtà non l'hanno manco votati sulla rete, lei ha dimostrato pure questo. Ma certo, ma non è stato semplicemente uno scambio di voti, tu mi dai Zaccaria al Consiglio Superiore della Magistratura e io in cambio ti voto la Sciarra, non è stato altro che questo. Ma secondo lei ovviamente, sì, ovviamente fa parte della logica dei partiti, ci mancherebbe però altro. Però dei partiti, dice lei. Però dei partiti, appunto, dico io, lo spirito del movimento mi pare che stia andando un po' a perdersi, insomma, se non altro si sta annacquando. Senta, professore, ma secondo lei Grillo come finisce? Cioè, mi faccia una previsione, cioè, di come può finire la vicenda di Grillo, si è scocciato lei, secondo lei? Guardi, la vicenda personale di Grillo a me non è che interessa poi più di tanto, io la mia speranza era che questo movimento potesse cambiare l'Italia. E invece? ahimè, vedo un grande tentativo di trasformare, che forse è normale, un movimento che si sta istituzionalizzando e sta diventando un po' come tutti gli altri, certamente l'onestà, l'anticorruzione, tutto quel che vogliamo, però perde quello spirito originario della democrazia diretta, della democrazia della rete, eccetera. Ma Napolitano, secondo... ma Napolitano è un bene che se ne vada via il più presto possibile o no? Ma Napolitano non va via, questa è un'invenzione sicuramente non a Natale, tutte queste cose che sono state fatte soltanto per accelerare la riforma elettorale. Napolitano se ne andrà quando firmerà la riforma elettorale, quindi io immagino entro la metà del prossimo anno, se tutte le cose se il patto del Nazareno tiene come credo. Ma Grillo si illude di poter trattare qualche cosa sulla legge elettorale, cioè Renzi sta utilizzando Grillo un po' come spauracchio per Berlusconi? Esatto, non c'è altro, è caduto in questo tranello. Cioè un dilettante, lei sta dipingendo Grillo e Casaleggio come due dilettanti allo sbaraglio, oppure Casaleggio è fuori e non agisce? Guardi, io non voglio adesso, non mi interessa personalizzare. Come sta Casaleggio innanzitutto, come sta? Ah, che ne so, io non ho nessun rapporto con entrambi, quindi sto parlando esclusivamente come un semplice iscritto al movimento, ma io non ho nessun rapporto. Senta, se dovesse diventare Prodi Presidente della Repubblica, lei che fa? Scappa dall'Italia, che fa, professor Becchi? Sì, effettivamente l'esilio potrebbe essere una buona soluzione, ecco, cioè, non lo so, comunque io sono già esiliato dall'università dove non ho più cittadinanza ideologica. In che senso? Perché i miei colleghi, da quando ho aderito al Movimento 5 Stelle, che ovviamente viene considerato come movimento, sì, eccetera, mi hanno privato di cittadinanza ideologica. Ma che vuol dire? Che vuol dire? Vuol dire che non puoi più far parte delle commissioni, non puoi più, cioè ti lasciano lì a morire nell'università, però insomma non hai più la possibilità di fare le cose che un professore normalmente fa. Ecco, cioè isolato come ai tempi del fascismo, una cosa del genere, cioè come facevano? Esatto, più o meno lo stesso, poiché non ci può essere nessuna procedura disciplinare nei miei confronti, perché io non ho fatto niente di male. Che però la vedono essere... come un appestato, ti vedono come un appestato. Sì, Paolo. Sì, esatto, proprio così, insomma sì, più o meno. Sai che è talmente avvelenato con l'euro, Parenzo, il professor Becchi, che l'altro giorno ha risposto ad una pubblicità sull'euro, sui 10 euro, la pubblicità credo che sia fatta non so da chi, dalla banca centrale. Com'è che hai risposto, Paolo? Com'è che hai risposto? Sai dove te li infilerei quei 10 euro nuovi? Perché francamente, voglio dire, io sono... era una battuta. Ma perché utilizzi l'euro? Allora, comincia a utilizzare, che ne so, il baratto, comincia a fare il baratto o qualche altra cosa. Esatto. Cioè, ti verrebbe la voglia di, quando vedi l'euro in faccia, te che fai? Che reazione hai quando vedi quella moneta in mano? Quando hai la moneta in mano, la moneta? Ma non penso tanto a me, penso alla distruzione che è stata per il nostro paese, che continua ad esserlo. Guarda, quello che io dicevo 3 anni fa, ti ricordi ad Agorà, quando tu mi attaccasti 3 anni fa e poi nella pausa del caffè poi siamo diventati amici, perché io discuto con sì, tutti. Sì, che mandavo l'ambulanza, le cose. Esatto, tu dicevi, adesso gli mandiamo l'ambulanza. Adesso fai conto che le ultime cose sono che Cuperlo e Fassina... Sì, sì, è vero, dicono che bisogna rimettere in discussione, che l'uscita dall'euro è un'opzione politica. Infatti sono la disperazione pure loro, secondo me. Va bene. Comunque siamo già in tanti, ecco, sull'euro. Direi che quello che una volta era... Sì, l'opinione pubblica ha cambiato un po' opinione, però... Cioè, è cambiato un po' opinione. Vabbè, sì. Ti saluto. Ciao Paolo, ciao. Ciao, ciao, buona serata a tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao. La Zanzara. Giorgio da Genova. Buonasera. Vai Giorgio, dimmi. Buonasera, io sono per lo sterminio completo degli rom e degli zingari. Bene. Far del mangime per i maiali è l'unica soluzione per... È l'unica soluzione per io che spero cosa? Spero che questo stia scherzando, questo pazzo. No, non sto scherzando, Parenzo. E allora lei è un matto. E lei? È un potenziale violento, è un matto. Lo sterminio completo, donne, lei, uomini, bambini. È pazzo. Io pensavo scherzasse questo signore, invece oggi conferma tutto. Un animale se lo addestri cambia, uno zingaro non cambia. Quindi via, campi di concentramento, un autocompattatore, da una parte entra zingari, dall'altra esce mangime per maiali, no? Leonardo da Pisa. Giuseppe, buonasera. Dimmi, dimmi, Leonardo. Sì, io, vabbè, lo so che ora tanto ti arrabbi perché il mio non è un argomento da battaglia, però è l'unico modo che ho per parlare con Parenzo. David? Sì, caro. Ma perché mai bloccato su Twitter? Sì, ma chi se ne fotte, però. Ah, perché si vede che sei volgare o dici insulti. Ah, ma mi hai bloccato oggi, io ho fatto una battuta a tua moglie. Ah, ecco, sì, per quello, perché esatto. Ma io non ho scritto niente a tua moglie. Bravo, cioè anziché insultare me, hai. Ma io, non sono io. Ma che battuta io hai fatto? Scusa, Leonardo, che battuta hai fatto? Spiegami. Ah, no, nulla, insultare. Sua moglie su Twitter ha scritto una cosa che probabilmente qualcuno. Che poi non è manco sua moglie ufficialmente, ma comunque, vabbè, è uguale, dai. Un poco male. Vabbè, è uguale, la compagna, la moglie è uguale. Allora, Leonardo. Ah, vabbè, scusami, insomma, la compagna. Io ho fatto una battuta a sua moglie citando Parenzo e lui mi ha bloccato su Twitter. Sì. No, vabbè, ma qualcuno è più suscettibile. Tutta. Prima ti ho mandato a quel paese e poi dopo. Ma che battuta era? Che battuta era? Ma io non ho scritto a tua moglie, insomma, la sua compagna. Ma che non ho scritto io quelle cose, io non ho scritto nulla, però te mi hai bloccato. Beh, certo, ma io devo dire devo fare questa tecnica, cioè ho visto che no, ma che battuta era? Non ho capito, Leonardo, che io battuta? Blocco gli insulti, non le discussioni accese. Blocco, no, gli vabbè, insulti, ma ognuno fa quello che mi stanno sulle, sì, ma ognuno fa quello che vuole. Io voglio capire, Leonardo, che battuta era? Cioè, se era una cosa di cattivo gusto oppure una cosa. Beh, no, appunto, Giuseppe, io non lo so, perché qualcuno gli avrà scritto battute di brutto gusto insomma alla sua compagna. No, io sono introfilato sono entrato in quella conversazione dicendo a Parenzo, guarda, ho citato Parenzo e lui mi ha bloccato. Punto. Vabbè, avrà sbagliato a bloccare pure te, che non lo so, cioè va bene, adesso ognuno poi fa quello che vuole, blocca chi vuole. Ragazzi. Ma mi dispiace, non volevo mica offenderli. Vabbè, ma lui quando si tratta di queste cose qua è suscettibile, che vi devo dire? A me dicono qualsiasi cosa, io non blocco nessuno, tranne qualche stalker femmina particolarmente aggressiva, ma proprio in casi estremi, in casi molto estremi. Il resto a me non me ne frega niente. Davide, tu sei molto suscettibile. Va bene, va benissimo. Sì, ma perché mi rompe le palle, lo blocco. Ma rompe, certo, le palle, se uno ma fa un mi rompo le palle, non ti ho detto nulla. Vabbè, dai. E rimane ancora un diritto, mi pare. Sì, assolutamente. Però giustamente questo qua lui dice può continuare a insultare liberamente. Ma non ha insultato, dice. Io non lo vedo. Uno. Capito? Ma comunque guardare gli insulti ogni tanto capisci le persone, eh? No, cioè, ma io lo faccio, non è che li attenzione, io ogni tanto lo guardo, vedo che comunque parlano di me, del bene e del male, comunque, ma no, vedo. guarda e passa oltre, che ti frega di bloccare, ma Valerio, ma non voglio che sulla line ci siano quella sequela di discussioni in cui ci sono solo insulti. Vabbè, alle volte ci sono dibattiti, e allora togliti da Twitter, perché no, fai bene, no, non gliela do vinta. Valerio Firenze veramente, vai Valerio, dimmi, vai. Io mi dispiace che non ci sia più. Mi senti? Sì, vai Valerio, vai. Scusa. Mi dispiace che non c'è più Toscani. Beh, Toscani non c'è più da un pezzo, però, da un'oretta circa. Gli volevo chiedere a Toscani se lui aveva visto il filmato, il programma della Gabanelli, perché evidentemente lui è giudicato dai titoli di giornale. Ha letto due o tre titoli e ha sparato quella terribile, enorme stata sulla faccenda delle oche, perché la faccenda delle oche lo si vede benissimo che è un grosso problema, è un po' come non tanto spennare le oche, ma voi ve lo immaginate le pecore che vengano tosate? Ma guarda, per me è un non problema quello lì, al di là delle norme europee, è un non problema, perché non è che ci possiamo aspettare che le piume d'oca vengano fatte salvaguardando la salute delle oche, tanto se le oche non finiscono in quel modo, finiscono in un altro modo, amico mio, dai. No, è il problema, sai perché? Perché imbecille di Bertelli ha risposto dicendo che lui i fornitori non li controlla e non sa questo rimbecille, fammelo ridire, sì, che esiste a livello mondiale i controlli sui fornitori. bilancio etico, c'è l'ISO 9000, c'è il Sigma 6, ci sono tutte queste cose, e che questo signorino, che è un cialtrone con i soldi, ha osato mettere quello che è plateale, c'era la visibilità, c'era un filmato e bisognava essere ciechi per non capirlo. Ci siamo capiti? Sì, il problema ma non è tanto che lui la pelliccia la fa 300 volte più, non me ne frega una massa, è che è entrato in merito a una cosa, veramente ha messo in piazza la sua cialtronaggine. Ma perché? Tutto, scusa, dicendo che la Gabanelli è stupida, perché? Non ho capito perché. Lui non può, nessuno oggi nel mondo, fortunatamente, può esimersi dall'essere condannato quando non controlla il proprio fornitore. Ah, qualsiasi, tu dici che comunque Moncler deve controllare il proprio fornitore o subfornitore, certo, in ogni caso. A partire dalla Nike, te lo ricordi la Nike quando venne fuori lo scandalo dei bambini? Sì, ma quello era però una produzione diretta della Nike. Funziona così nel mondo. Va bene, Valerio, grazie. Diciamo una bella faccia bella, ma è un cialtrone. Grazie. Durante la trasmissione, Parenzo, io vorrei far sentire, ecco, in diretta lo squillo, chi è che mi chiama durante la trasmissione? Mettiamo in diretta, che dici? Metto in diretta, che dici, David? Metto in diretta. Ecco, vediamo. Pronto, buonasera, chi è? Buonasera Giuseppe, sono Fabio, sono tassista. Dimmi Fabio. Aspetta un secondo. Parla. In pratica sono i sondati il Seveso e l'Ambro, sta dicendo. La città è andata. Ma tu com'è il mio telefono? Scusa, abbi pazienza. Vabbè, amico mio, aspetta un attimo. Voglio capire una cosa. Come fai ad avere il mio telefono? Come fai? Chi stai portando? Dice che sta portando una persona. Chi stai portando? Sto portando una persona che ha detto che è molto offesa con lei perché non la chiama più. E adesso ha detto che vuole andare dal Transiuni. Vuole andare? Vuole andare dal mitico Transiuni. Io non so chi sia, vabbè. Vabbè, ti chiamo dopo. Allora, Giulio da Ferrara. Da Verona. C'è un tassista, sì, che mi ha chiamato, evidentemente perché qualcuno ha dato il numero di telefono a questo tassista. Mi ha chiamato dicendo che stanno esondando non so che, il Seveso e altre cose. Vabbè, Giulio. Io volevo. Sono uno dei tanti a cui Ilaria Cucchi sta sui coglioni. Volevo dirti questo. Allora? Sta sulle balle. No, perché francamente siamo nell'Italia del doppio pesismo. Quando c'era, ti prometto che non voto Forza Italia, ma delle sentenze a sfavore di qualcuno non diciamo simpatico all'intelligenza italiana, le sentenze bisogna rispettarle, va tutto bene. Quando c'è una sentenza contro i simpatici di una certa parte, tipo la politica, se anche a poco di politico comunque si vedeva che era da qui, diciamo così, da quella parte lì. Ma quale parte? Ma perché all'idiozia non c'è mai fine? Ma dai, fine? Ma adesso Parenzo... Scusami, ho detto un'altra cosa. Io ho sempre rispettato anche le sentenze che hanno colpito Berlusconi, quelle che le hanno assolto, quello che lo hanno condannato. Ho sempre rispettato quelle sentenze. Magari le ho criticate, ma le ho sempre rispettate. Non ho mai detto che i giudici hanno sbagliato, mai. Non parlo solo di te, io. Mai. Ma io no, io però ti rispondo per quel che dico io. Il caso di Cucchi non è sinistra o destra, è questo che mi manda ai matti e mi fa ancora oggi incazzare, perché non c'è sinistra o destra, soltanto una persona come Giovanardi può mettere sinistra-destra e la verità. Perché c'entra sinistra-destra? No, Giovanardi... te lo spiego, perché lui fin dall'inizio del processo stava già da una certa parte in quella storia. A prescindere. Vabbè, ma se ce l'hai con Giovanardi per i gay. Ma no, io gli voglio anche bene a Giovanardi. Se non ci fosse Giovanardi, noi faremmo il 40% delle trasmissioni in meno, quindi viva Giovanardi. A parte che non è vero, il punto fondamentale è un altro. Per... Il punto fondamentale è che qualsiasi cittadino di buon senso, da Cruciani al poveretto che chiama adesso, da tutti questi insieme, dovreste essere voi i primi a dire verità, verità, verità. Parenzo, due sentenze non valgono un cazzo, questo abbiamo capito. Due sentenze da magistratura non valgono una mazza. Che non hanno accertato chi ha ucciso Cucchi e come è morto. Come no? In alcune sentenze è scritto chiaramente, come è scritto nelle commissioni parlamentari, che è morto perché non l'hanno rifocillato, usiamo questa parola. Non l'hanno fatto mangiare abbastanza, capito? Chiaro? Luciani, una cosa sola. In tutto il tempo che questa Ilaria Cucchi, che è stata bravissima dal punto di vista anche mediatico, perché la vedevi. Da quando se uno non dice, non prova che è stato picchiato a sangue o dai carabinieri o dalla polizia penitenziaria, allora sono tutti venduti, comprati, non è stata fatta giustizia. Se non viene deciso questo, e prima o poi vedrete che ci riusciranno naturalmente, perché vedrai in Cassazione adesso si deciderà di rifare il processo, uscirà fuori qualche testimonianza per qualche cosa, prima o poi ci si arriverà. Comunque, se non esce fuori questa verità che è stata sin dall'inizio, anzi con qualche, in realtà con qualche passaggio diverso di cui parleremo un'altra volta, se non esce fuori questa verità, cioè che è morto perché picchiato, non è contento nessuno. Benissimo. Bravo. Andiamo avanti. E dopodiché è molto sponsorizzata questa cosa, perché adesso per carità mi dispiace per Cucchi, che è sempre un essere umano, ma ce ne sono tanti di Cucchi in Italia, purtroppo, non dico tutti i giorni, ma tutte le settimane. Questa qua era dal TG5 al TG1 alla 7. Quello va bene, ognuno fa quello che vuole, uno va in televisione per le proprie idee, per difendere la sua. Va bene, io trovo scandaloso che venga assunta, tra virgolette, chiaramente non assunta, che venga che Rai 3 decida di dicendo una stupidaggine. Ma perché una stupidaggine? Non posso. Va bene, è una stupidaggine. Un attimo solo, fermi che c'è la borsa. Che cos'è? Che è un bell'ambiente. Ambiente di maiali. La Zanzara. Io sono tranquillo perché sono cosciente di quello che dico. Io ho una moglie non italiana e si è inserita benissimo. Loro non si inseriscono. Loro non li puoi cambiare. In un paragrafo di Mein Kampf, se non sbaglio, dice: un animale se lo addestri cambia. Uno zingaro non cambia. Quindi, via, campi di concentramento, un autocompattatore, da una parte entra zingari, dall'altra esce mangime per maiali, no? Io non me la faccio proprio niente sotto, io l'ho letto due volte perché la prima non rimane bene, è meglio due volte. A proposito, Parenzo, a proposito di Rom, questo più me lo fai sentire, più veramente non la può passare liscia con quelle parole. Vabbè, tu fai quello che vuoi. Io sono per la libertà d'opinione, figuriamoci, questo è proprio incitamento all'odio. Ma ti voglio dire una cosa in più, siccome te l'ho detto anche altre volte, sulla vicenda Cucchi, in primo grado, peraltro, nella sentenza c'è scritto che è stato picchiato. No, calma. Allora, calma. Io vorrei. Calma, non è così. Non è così. Sì, è così, lei non è così. Io non vorrei è così. Soltanto che questa questione non è così. Un derby. Non è così, non è così. Non è così. Giustamente vuole fare una cosa, vuole impedire che venga inaugurata a Roma una strada intitolata a Stefano Cucchi, che è una cosa assurda, assurda. Perché commette una cosa vergognosa? Ma quello fa una sua battaglia. Ma perché quelli che fanno una battaglia? Perché quelli che fanno una battaglia per alcune cose va bene e altri che la fanno? Sui morti. Ma che c'entra? Ma non è la battaglia sui morti, ma smettila. Una battaglia di giustizia da fare, sai perché non la presenta bene lo Stato Giovanardi? Vabbè, adesso che c'entra Giovanardi? Un deputato, ma un deputato dovrebbe essere il primo, a porsi il si problema. Si occupa di fatti pubblici, e questo è un fatto pubblico. Questo è un fatto che pubblico. Sono detenute nelle mani dello Infatti, Stato. Lui ha sempre detto che la colpa è dei medici che non l'hanno nutrito bene. Ha sempre detto questo. Dovrebbe essere il primo. Vabbè, ma non voglio difendere Giovanardi che si difende bene da solo. Dai, su. Fin dal primo giorno l'ha usato politicamente. Vabbè, lei già detto, e può probabilmente andare in tribunale con Giovanardi che gli ha dato. Prendendo giallo. Non me ne frega niente del tribunale. Adesso te la stai prendendo tu con la Ilaria. Ma io non me la sto prendendo. Semplicemente perché, Davide, sto dicendo quello che penso, chiaro? Chiaro, non me la sto prendendo. Non mi interessa, perché non sono ipocrita come te, che c'hai i santini a casa, capito? A me non me ne frega niente di Ilaria Cucchi, di Saviano. Dico quello che penso e me ne fotto dei rapporti, capito? Chiaro? Non me ne frega niente di destra e sinistra. Dico che è sbagliato che vada a fare un programma con inviato di Rai 3, punto e basta. Ma perché? Perché è sbagliato, perché è sbagliato. Perché si chiama Cucchi, non ho capito. Non è questo, perché chiaramente ci va perché la sorella di Stefano Cucchi, ma punto e basta. Ma perché deve avere, oltre al danno, la beffa di essere, ma che vuol dire? Umiliata in questo umiliata, modo? Umiliata da chi? Ma umiliata da chi? Perché si chiama così, ma potrà avere il diritto di fare, oltre dai, ad avere, ma smettila, smettila, chi ha, dai, su, smettila. Ma scusa, ma umiliata, umiliata, ma che c'entra l'umiliazione? Umiliata da uno Stato che non è stato in grado di capire chi ha ucciso. E allora è risarcita, risarcita, andando a Rai 3, risarcita andando a Rai 3. Quello, ma non c'entra. Sembra nulla. Una delle vittime del terrorismo, sai come le vittime del i parenti delle vittime nulla. Del terrorismo che vanno in Parlamento, uguale. Ma ci sono anche, a parte che sono dei simboli. I Rom e Radio Padania, sì, belli simboli. I Rom e Radio Padania. I Rom e Radio Padania, perché non è che ci sono anche dei precedenti, ascoltatori. È che questi sono dei ladri patentati, sono delinquenti. Tu hai sentito ancora un rom, uno zingaro che fanno cazzo, non lo so, non fa fare l'infermiere, fa il giornalista, non fanno un cazzo, rubano dalla mattina alla sera e sfruttano le persone. Questa è la verità. Poi che gli ipocriti soliti del cazzo vadano a fare la morale in TV, è oscena questa cosa qua. Ciao, buona giornata. Ma Maroni, quei soldi per fare le casette ai rom a Milano, ma dove li ha presi? Ma che carino! Non ci avevo pensato che qualcuno gli faceva le casette. Spiegami questa cosa, se hai capito qualcosa. Lo so che ridi, vediamo. Io sono italianissima, guarda, mi girano le balle perché mi dice di fargli le casette e gli avrei dato fuoco. Con loro dentro. Sì, guarda, ma questa no, è un'altra. Niente. Perdonatela, è uscita anche lei dall'ospedale psichiatrico. Sì, sì, perdonatela. Sì, a proposito di quello che succede a Radio Padania, sentite Pellegrini. Ma l'ha chiusa adesso sta radio ormai, no? No, non si deve chiudere Radio Padania, no, no. No, ma scusa, la Padania l'ha chiusa. Si devono chiudere i rubinetti pubblici, dei soldi pubblici. C'è questa ipocrisia per cui si dice quando si chiude un giornale. No, ma io sono, figurati. In alcuni casi, voglio dire, quando chiudono... Ah, l'Unità non va bene, invece la Padania va bene. No, ma sì, beh, io su questo sono molto discriminante. Cioè, secondo te va bene dare soldi pubblici all'Unità e non alla Padania? No, questi soldi pubblici per me, il finanziamento pubblico, vedi, come sai, va dato, quindi io sono di quest'altro partito, ma non è questo. Pensate. Il tema non è, l'ho sempre detto che peraltro ci vuole una base, perché se ci fosse il finanziamento pubblico non avremmo avuto tutti quegli scandali che ci sono stati. Vabbè, probabilmente allora? Però posso dirti semplicemente che non posso esserci, mi dispiace per i posti di lavoro di persone, non di colleghi, di persone che hanno perso. Vabbè, allora vai. Come, però non è che mi dispiace, posso dirti, non ti dispiace per la chiusura della Padania, ma guarda, almeno non mi dispiace almeno la chiusura dell'Unità, a me, ma nemmeno dell'Unità mi dispiace. No, vabbè, ma a me quello della Padania non mi dispiace. Io voglio che finisca il finanziamento pubblico ai giornali, qualsiasi tipo di finanziamento pubblico, no, anche quello che ha il Sole 24, se ce l'ha in piccolissima parte, anche quello che ha il Sole 24. Quelli che telefonano a Radio Padania e dicono quelle cose, ad esempio. Vabbè, ma quello sono i microfoni aperti, ma io vorrei che quelle persone però pagassero, cioè la responsabilità. Vabbè, ma amico mio, ma tu vuoi tribunali dappertutto e vuoi processi dappertutto, dai, su. Altro, io non sono per i tribunali e i processi. Allora aspetta, uno sono dei... per la responsabilità delle cose che si dicono. Uno dei che sì, vanno bruciati, ma scusa, ma ci sarà un minimo di regola? Allora denuncia quel tizio là. Allora, un attimo, ma solo. Ma dovrebbero chiudere la radio se denunciassi quel singolo, a parte che quello l'ha detto da noi, quel tizio di prima, su Mein Kampf, al limite devono chiudere la zanzara, al limite. Questo qui va segnalato subito alla procura. Allora, Pellegrin, uno dei conduttori di Radio Padania, e i vibratori, sentite. Sex toy, un vibratore, non so se poi sono in gomma, in latex, lattice, hanno le pile, non hanno le pile, non ne faccio uso, non mi scandalizzo, figuratevi, ma non ho avuto occasione di farne uso, quindi, anzi, magari mi prenderò un impegno, vi saprò dire. Ma Pellegrino quanti anni ha, scusa? 20 anni, 22, 20, 18, 17? Non ha mai usato un vibratore in vita sua, ma cosa, come sono fatti con le pile eccetera? Ma è una roba di un'ignoranza abissale, caro Pellegrino, non te la prendere, ma amico mio, aggiornati un po', Cioè, a me già fa senso commentare Pellegrino, commentare i gusti sessuali di Pellegrino. No, ma ha mai usato vibratore in vita sua, ma è indietro proprio. Ma no, di... ma quello che fa a casa sua mi interessa, ma molto dai, poco su. Mi basta già. Senti, quel che sento, io ho pensato però che c'è una persona che potrebbe proteggere Salvini, potrebbe fare da scudo a Salvini durante le sue puntate nei campi rom. Lo sai chi è? No. Ma io lo so, ma guarda, sarebbe vincente come cosa, altro che polizia, eccetera. Bud Spencer. No. Efe Ball. Buonasera a tutti. Ciao. Anche io non ho mai usato il vibratore, devo essere sincero. Quando ci sono quelli veri, non capisco perché dovrei usare un gigio che funziona con la pila. No, però non mi dire che non l'ha mai usato, Efe, perché non ci credo. Ne ho tanti di quelli veri, non ho tempo per usare un vibratore. No, vabbè, Efe, però nella tua carriera di transessuale prostituta non hai mai usato un vibratore. Tu in vita tua non hai mai usato un vibratore. Quelli che vengono a casa mia. Vabbè, quello è la tua professione, è un'altra cosa. Non toccate Salvini, per favore, perché non capisco perché vogliono far male lui, perché non capisco. Da una parte gli italiani non vogliono più vedere questi extracomunitari, stranieri, campi sì. rom, tutta questa gente qua, perché non capisco, lo vogliono male. Questa, tra l'altro, tutti pensano che Lega Nord fosse un partito razzista. E invece no. No, per carità, mica vanno davanti delle persone o dei negozi sì. o, non lo so, le pizzerie che per esempio sono gestiti da chi? Dalle persone che sì, che vengono dall'Egitto, dalla Tunisia, mica vanno a fare qualcosa a queste persone. Loro sono contro delle persone che creano dei problemi. Però, scusami, Efe, ma con tutto il rispetto, Efe, ma tu che sei molto leghista, diciamo, no? Che voti sì, Lega, sì, giusto? Sì, esatto. E sei anche di origine turca, anche se hai il passaporto italiano, sì, immagino, sì, no? O no? Sì, da più di 9 anni sono italiano. Da più di 9 anni. Ma secondo te, quelli che nascono in Italia, i bambini che nascono in Italia, dovrebbero essere italiani? O no? No. Direi di no. No, direi di no. Purtroppo dico di no, perché io con tutta la mia vita che ho passato, sono da 15 anni che qui, mai tamponato una macchina, mai avuto un scandalo, mai sono stata arrestata, devo essere sincera. Credo che uno dovrebbe veramente vivere per capire le regole, la cultura di un paese, vivendo. Io sono vissuta per 15 anni, lo so. Sicuramente, ma i rom ti piacciono? Essere orgogliosa, ma non ho mai toccato nessun italiano. Io ho rispettato tutte le regole. Per toccarli li hai toccati? Per toccarli gli italiani li hai toccati, diciamo. Continui a toccarli, abbi pazienza. Ho toccato anche te. No, vabbè, hai toccato me così di striscio. Ha toccato se me. Ti ricordi un anno fa? Ha toccato anche te, che siamo usciti su tutti i giornali. Sì, amica mia. Sì, sì. Senti una cosa, cara Efe, ma i rom ti piacciono a te? Cioè, tu ci andresti con un rom? Se un rom ti pagasse, no? Ho dei clienti rom che vengono dalla Romania, sono ricchissimi. Non ho niente contro il rom, io sono contro delle persone che sono stranieri o non sono stranieri, o sono comunitari o sono extracomunitari, che creano problemi alle altre gente. È lo stesso mentalità che tiene anche Lega. Lega non è contro rom o contro egiziani o contro tunisini. Loro sono contro delle persone che vengono da questi paesi solo per creare dei problemi. Senti, ma perché non vai con perché non accompagni No, ma questo l'ho capito. Perché non accompagni Salvini a fare qualche giro? Guarda che Salvini è una persona più umile che mai. Ho anche tweetato, siamo usciti su tutti i giornali anche di quella volta lì. Salvini è una persona gentilissima, umile. Io quando sono andata al gazebo con te per firmare al referendum di Casa Chiuse, quella volta lì, tu è venuto, mi ha salutato, ha parlato con me. Dimmi quale il politico o il tizio. Vabbè, che d'accordo, però perché non vai con lui? Parlare con una trans, accompagnalo in qualche campo rom, così lo proteggi, non ti fanno niente. Allora, a te. Se vedono te non ti fanno fino niente. Fino a quello non ci arriverei, con tutto il rispetto. Lui ha talmente tante persone che li vogliono bene, non ha bisogno sicuramente me per andare ai campi rom. Mi dispiace quella signora da Lega Nord che è stata picchiata da quelle ma due rom. Ma che picchiata, gli hanno dato uno schiaffetto. Sì, dai, allora, due schiaffi, sono sempre due schiaffi, con tutto il rispetto. Qui siamo in Italia. Senti, Efe, ma perché pubblichi? Gli italiani devono essere italiani in prima. Io non ho mai dato uno schiaffo a nessuno in tutta la ma mia no, vita. Tu non dai schiaffi, amica mia, fai un'altra cosa, non dai schiaffi. Ci sono stati dei momenti in cui potevo dare anche un schiaffo. Senti, Efe, sempre le regole di un paese. mesi Efe, in cui sono comunque un ospite. Certo, Efe, Parenzo, ma perché Efe non fa, per esempio, io lo so perché non vuole fare, ma un bel film porno, no? Guarda, si guadagna troppo poco, si guadagna troppo poco, secondo me. Ma non c'entra niente, io faccio già tante foto, metto su Twitter, tu lo sai, tu e i tuoi amici lo sanno perché mi seguite, metto anche qualche cosa. Oggi ho messo due video abbastanza hot. Ma ti hanno cancellato su cosa su YouTube. Oggi ho messo due video che ma non si possono più di 300 persone. Ma ti credo. Ho capito, però amica mia, non puoi mettere i video così, ma te li cancellano subito. No, dai. Ma cosa metti più di 18 anni, YouTube non ti cancella. Sono soltanto per le persone che hanno più di 18 anni, chi quando giro questi video che sono con i miei clienti. Ma ti piacerebbe andare in Parlamento? Ti piacerebbe una transessuale in Parlamento? Stupendo sarebbe. Allora, e una transessuale c'è stata, che è stata la Luxuria. E vabbè. E io sono stata a Palazzo Madama un anno fa, il 26 marzo, un anno fa, grazie. Per un sì, lo so. Di sì, ecco. Vorrei tanto fare la politica, ripeto, io non ho mai fatto male a nessuno. E candidiamola, essere, dai, candidiamo. Vorrei essere, non fermarmi, che è una cosa molto importante. Per far guadagnare 4-5 miliardi di euro all'anno all'Italia, vorrei essere il ministro dei lavori particolari. Cioè, ministro dei lavori particolari? Il mio mestiere da controllare, potrei trovare tutte le prostitute da ovunque parte d'Italia, visto che io ho lavorato per anni per questo lavoro, e potrei farli tassare in cambio di una vita dignitosa, normale, come tutti ce l'hanno comunque. Vabbè. Come una pensione, Efe, sì, regolarità. No, ma ho capito, ma questo va benissimo. Ti saluto, un abbraccio, ciao. Allora, tra una cliente e l'altro abbiamo pure intercettato Efe Ball. Dobbiamo chiudere. Roberto da Bologna, Paolo da Cremona, Davide da Milano, adesso faccio come ai vecchi tempi, Renato da Milano, Nicola da Roma. Ci sentiamo domani 18:30. Io vado a mangiare, caro Parenzo. Dove vai tu, a casa? No, io sono a Correggio. Ah, quindi... già, Correggio, paese di cosa? Chi è? Il paese di chi è? Gabue. Di Gabue. Ciao, a domani, dai, ciao. Perché, che so io, dal signor Carruba, dal signor Barisoni, financo, anzi, dove chiamano in diretta? Dal signor Milan, come mai non chiama gente che cita mai in town? Non chiama... Io mi chiedo come mai solo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Se ti piace così, ma tienti questa roba qua. Ti piace così? Va bene. Radio 24. La passione si sente.